Ho letto Foucault sul tram di ritorno. Gli anormali sul banco fuori il solito contorno. In TV ogni sera lo stesso copione. Mostro disumano, talk show, perizia d'occasione. Il crimine medicalizzato fa comodo a tanti. Un neurotrasmettitore al posto degli amanti. Ma chi è davvero malato non fa ciò che vede in zona. Lo stigma pesa addosso a chi non c'entra e non perdona. Panopticon diffuso tra webcam e cartelle. Il potere ti osserva e ti chiede di starci a parlare. Ogni confessione dal medico alle storie belle è un altro modo per farti disciplinare. Non sono pazzo, il crimine è una scelta. Ma tu mi vendi una scusa perfetta. Mostri umani in prima serata, mentre il mercato conta la mandata. Non sono un mostro, né la tua icona, né il demone che il trend ti racconta. Se vuoi fermare davvero la strage, cambia la struttura, non solo il linguaggio. Il bambino impuro chiuso in cameretta. Oggi è l'incel che temono in ogni diretta. Ogni maschio impacciato diventa sospetto, come se il desiderio fosse un'arma nel cassetto. Marcus chiama libido un capitale interiore, che il mercato ruba e rivende come amore. Bauman dice amore, liquido, usa e getta. Il partner è oggetto e la dipendenza ti aspetta. Non è l'istinto bestiale da castrare, ma un mondo che ti insegna a possedere e poi scartare. Se vuoi davvero ridurre l'omicidio, smonta il mito del possesso. Non solo il maschio cazzo. Non sono pazzo, il crimine è una scelta. Ma tu mi vendi una favola perfetta. Mostri umani in prima serata, mentre la paura viene monetizzata. Non sono un mostro, né la tua icona, né il demone che il trend ti racconta. Se vuoi salvare chi adesso ha paura, cura la società, non solo la natura.